Lui ci lascia un testo molto importante di cui consiglio la lettura, che è Tecnica della propaganda politica di Sergei Chakotin, uscito in Italia per la prima volta dalla Sugarco, recentemente ripubblicato, sempre più o meno con questo titolo, che è una traduzione sbagliata, ripubblicato qualche mese fa, lo trovate facilmente in internet. Solo che la recente ripubblicazione omette un capitolo per cui un po' discutibile. Tra l'altro, il titolo di giornale non è Tecnica della propaganda politica, è Le viol de la fou, lo stupro delle masse, dove lui rivela, sostiene, poi stiamo sulla sua parola, che Pavlov non ha fatto solo esperimenti sui cani, li ha fatti anche sugli esseri umani, attraverso meccanismi di condizionamento, per ottenere dei comportamenti attraverso la tecnica di riflessi condizionati. Questo, per esempio, lo si ottiene attraverso una propaganda ossessiva, ripetitiva, l'associazione. Anche qui torna il discorso dell'associazione fra comportamenti collettivi in sede politica, razionale, eccetera, e dimensione inconscia, prima di tutto sessuale. Questo rapporto fra comportamento collettivo e sessualità attraversa proprio tutta la storia che stiamo toccando. Pensate a una cosa, si discute sul se sia stato Bernet o altro l'ideatore della nuova bottiglietta della Coca-Cola, che differentemente dalla bottiglietta precedente, che era la normalissima bottiglietta cilindrica, ha quell'andamento ondulatorio che evoca l'immagine femminile e che avrebbe permesso un'esplosione nelle vendite della Coca-Cola rispetto al periodo immediatamente precedente. Si discute su chi abbia avuto questa idea, però ecco, è un ulteriore elemento che vi dice quanto sia stato sistematico anche in comportamenti minimi, in minime occasioni, questo genere di associazioni. E queste genere di associazioni sono fortemente insistite nel libro di Chakotin sulla propaganda politica. Il libro, per la verità, al pari degli studi di Bernet, venne apprezzato da un intenditore della materia come il dottor Goebbels, sulle cui competenze tecniche credo che non ci sia discussione. In realtà Chakotin ci rivela una serie di cose, suggerisce anche una serie di idee su come contrastare questo potere assoluto e qui distinguere fra la sua qualità di scienziato e la sua qualità di menscevico, cioè di oppositore politico. Diventa abbastanza complicato. Di fatto questi studi verranno applicati non solo all'Unione Sovietica, ma verranno applicati anche e abbastanza massicciamente al nazismo e al fascismo italiano. Di fatto va detta una cosa che già prima della comparsa del libro di Chakotin, che è del 36, grosso modo, se ricordo bene, ma comunque dei metà anni 30, sia in Italia che in Germania si sono affermate tecniche di propaganda politica suggestiva, in parte di diretta, guarda caso, di diretta derivazione militare. Sarebbe molto interessante, per esempio, fare un'analisi dei canti fascisti. I canti fascisti permettono di capire molte cose su cosa è stato il fascismo e sulle sviluppare ulteriormente le teorie di interpretazione psicologica del fascismo. A Svero Gravelli una volta disse che il fascismo ha vinto perché aveva il canzoniere più bello. Non è del tutto infondato. Sicuramente come ritmi musicali, come qualità della musica, eccetera, prevalgono le marcette da Tabarin, ritmi particolarmente allegri, rispetto invece agli inni del movimento operaio, che hanno invece sempre una nota abbastanza triste, c'è sempre la nota del pianto per le condizioni di lavoro, eccetera, raramente c'è la dimensione militare, l'internazionale ha dentro un ricordo della Marsigliese, come per esempio la Jeanne d'Arc, che è un canto della Comune che viene riutilizzato negli anni 1930. Nel caso fascista, più che la matrice melodrammatica, cioè il canto del movimento operaio ha richiami religiosi e richiami al melò. Il canto fascista, la musica del canto fascista ha diretti agganci col mondo del Tabarè. Questo singolarmente è divertente notarlo per il canto anarchico, che è diverso dagli altri perché ha questa nota. Chi risenta una canzone degli anni 10, come Siamo studenti, ci trova già alcuni elementi che associano l'idea della virilità del giovane studente combattente che si diverte, però ci addestriamo perché un saldo braccio è della patria la salvezza. Quindi già si sta coltivando lo spirito che si esprimerà nell'interventismo delle associazioni studentesche fra il 14 e il 15. Il fascismo si richiama direttamente a quello e le due note che emergono sono una, l'aggancio alla goliardia, il richiamo sessuale, l'allusione sessuale a una certa irriverenza, il tema della virilità, tema della virilità che torna spesso nella canzone fascista, dove il fascista è ammirato dalle donne, eccetera. Singolarmente però nei giorni della Repubblica Sociale, quando il fascismo avverte, anche se non lo ammette, di essere all'agonia, scrive la canzone, le donne non ci vogliono più bene. È un segnale. L'altra cosa, direttamente presa dalla trincea, è l'esorcismo della morte. Guardate, nel movimento operaio la morte è un valore assolutamente negativo. Gli anarchici hanno un pochino nella loro canzone questo. Noi salutiamo la morte bella e vendicatrice che schiuderà le porte a un'era più felice. Ma nella tradizione socialista e comunista la tradizione della morte è tutt'altro che, l'immagine della morte è tutt'altro che positiva. Al punto che se all'inizio la falce che è nei simboli del lavoro è la grande falce, quella da mietitura, verrà sostituita dal falcetto, perché la falce, quella falce, è legata all'iconologia della morte e soprattutto negli anni della Prima Guerra Mondiale, spesso, per esempio nei vignetti di Scalarini, ricorre l'immagine della morte, lo scheletro mantato che miete vita sui campi di battaglia. Quindi la tradizione operaia, che non ha il valore dell'etica guerriera, ha il valore dell'etica del lavoro, ma non l'etica guerriera, tende tendenzialmente a rimuovere questo. Al punto che, ad esempio, qualcosa fa la tradizione comunista. La falce e martello nella tradizione socialista o simboli del lavoro è spesso contornata ramo dall'oro, gloria, e dal ramo di acacia, pace, o dalle spighe di grano, il lavoro della terra. I comunisti per un breve periodo alla fronda di alloro aggiungono la fronda di mirto, la pianta sacra a Marte, quindi gloria attraverso la guerra, non attraverso la pace, ma in breve tornerà l'immagine della caccia, della spiga di grano, verrà rimosso. Quindi l'idea della valentia guerriera non è. Invece è caratteristica di quest'altro mondo, che associa molto, dove la morte viene associata spesso ad immagini a volte di sfida, a volte legate in qualche modo all'idea del sesso, dell'amore. Nella decima mas, ma già prima, il simbolo della morte, il simbolo è il teschio con la rosa fra i denti, perché la morte è una cosa bella e profumata. se si cade sul campo di battaglia, ce ne freghiamo. C'è ripetutamente questo, il simbolo fascista è il gagliardetto col teschio e il me ne frego. Il fascismo è un esorcismo della morte di una generazione che ha combattuto e dove il resto non è tanto dato dai caduti. Quanto, cioè il grosso prezzo non sono tanto che i 600.000 caduti, quanto piuttosto i 2 milioni e passa di invalidi e di tubercolotici. Ci sarà un'associazione dei tubercolotici trincieristi con un suo inno, che varrebbe la pena di sentire, che dice: se morte più gloriosa non incontrammo al campo, il fato ci vota a una morte senza scampo. La tubercolosi non era curabile. Si arriva, anche lì c'è tutto un significato in cui trovate per esempio anche il tema dell'odio nei confronti del disertore, del pacifista. Nell'associazione tubercolotici trincieristi organizzò, la cosa è un po' atroce, con delle ragazze tubercolotiche il fatto di baciare sulla bocca le ragazze, i pacifisti, i disertori, eccetera, eccetera, per trasmettergli il bacillo che loro avevano fuggito disertando la trincea. Ecco, nel fascismo questa nota era già presente, quindi in qualche modo non è che Chakotin è eventualmente Pavlov abbiano inventato nulla, c'è già un clima dalla trincea, è già scaturita. È già scaturita un uso di queste tecniche di condizionamento attraverso soprattutto media recenti, la radio. Hitler, per esempio, sarà il primo a utilizzare come strumento di propaganda politica radio e l'aereo per spostarsi rapidamente da una città all'altra dove tenere comizi e quindi in qualche modo dare quest'idea di velocità, di potenza. In qualche modo molti elementi di questa propaganda, l'esaltazione della violenza e della potenza, strettamente connessa all'aggressività sessuale è un tema classico del futurismo. Quindi già questi temi ci sono. Il condizionamento attraverso grandi riti collettivi è già presente. Chakotin, sotto questo aspetto, più che inventare, spiega. Spiega, dice attraverso quali tecniche si ottiene tutto questo. Per andare più veloci e avviarmi alle conclusioni, devo dire che tutto questo ha poi una ripercussione anche in Occidente. Ecco, io personalmente non ho le prove di un rapporto fra Chakotin e anche Skinner e i servizi segreti, ma ho molti elementi che mi dicono a naso che c'è un rapporto. Non so se questo rapporto si è mai tradotto in una qualche consulenza, in un personale o semplicemente nella lettura delle loro opere, ma se voi leggete per esempio la sinossi della guerra rivoluzionaria curata dal SIFAR e fatta quasi tutto su testi americani, eccetera, o un libro come quello di Diaz de Villegas, un generale spagnolo esperto di guerra psicologica, a proposito in Europa i contributi più importanti sul terreno della guerra psicologica vengono dagli spagnoli, e per esempio noterete come la mano di Chakotin e di Skinner, del comportamentismo di Skinner, è molto presente. Il comportamentismo di Skinner, non citato come tale, viene proposto come la risposta occidentale alla teoria dei riflessi condizionati di Pavlov. E quindi l'idea che sia più avanzato, perché appunto mentre quelli puntano sul condizionamento, sul piegare la volontà dell'altro, noi invece abbiamo delle teorie psicologiche che puntano alla conquista della volontà dell'altro e all'utilizzo suggestivo, surrettizio della volontà dell'altro. Ecco, voi citazioni del genere troverete in moltissimi documenti dei servizi di quel periodo. Troppo frequenti per pensare che si tratti di qualcosa di casuale. Ora io non so se siano stati direttamente gli uomini in questione o alcuni loro allievi, ma che ci sia un rapporto. Chakotin personalmente è più probabile per la sua condizione di esule. Poi, tra l'altro, era uno dei primi esperti di cose del genere, quindi che possa essere stato consultato ci sta. Nel caso di Skinner, è invece possibilissimo che ci sia stato un pezzo della sua scuola. E infatti ci sono una serie di, a parte ci sono proprio delle citazioni aperte delle opere di Skinner in questi documenti, ma è proprio la filosofia del io posso ottenere attraverso queste tecniche. La famosa frase di Skinner: datemi un ragazzo, io lo educherò in modo tale da farne quello che vi volete, un ladro, un genio, un artista, un metalmeccanico, un idraulico, quello che vi pare. Questa frase è ripetuta molto insistentemente. C'è tutta un'idea del come prepararsi alla guerra psicologica con l'Unione Sovietica. La guerra è già iniziata, i russi la stanno facendo con le tecniche del condizionamento. Noi dobbiamo rispondere, dobbiamo rieducare i nostri cittadini. Ecco, questo è un tema che voi troverete abbastanza ossessivo e ripetuto nei testi dei servizi o nelle loro proiezioni esterne, per esempio i documenti sulle dottrine militari. La guerra psicologica diventa dottrina ufficiale della NATO già dal 52-53. Lì poi ci sarà il ruolo particolare di un gruppo francese, il gruppo degli ufficiali dello Stato Maggiore legati alla Cité catholique, sono cattolici integralisti, che spiegheranno la sconfitta francese in Indocina e in Algeria, proprio attraverso l'uso dello strumento della guerra psicologica. Tanto per capirci, è da questo gruppo che esce la costola che darà vita alla Ginterpress. E tutte le vicende della strategia di attenzione, cioè, sono interne a uno schema di guerra psicologico. Quindi, ecco, concludo per dare un po' più di spazio alla discussione. Ecco. Credo di aver dato alcuni lineamenti per capirci su quello che dicevo prima, come l'applicazione della psicologia alla vita sociale ha completamente cambiato politica, economia e guerra, dove la morale è quella per la quale quello che conta non è quel che si è, ma è quel che si sembra. Il carattere suggestivo è esplicitamente confessato. In realtà, pensiamo all'economia. La teoria economica neoclassica presuppone un consumatore razionale in grado di acquistare un prodotto secondo il miglior rapporto fra qualità e prezzo. E quindi suggerisce l'idea di un mercato nel quale immaginato come un grande piano perfettamente liscio dove non ci sono ostacoli e dove ciascun consumatore è libero di muoversi alla ricerca della migliore occasione di acquisto. Ora, in realtà la pubblicità è una smentita permanente di questa teoria perché presuppone, uno, che il comportamento del consumatore possa essere determinato dalla presentazione di un prodotto che, esaltando qualità non necessariamente vere, e presentando persino il pre motivando persino il prezzo in modo tale da renderlo conveniente al di là di un mero confronto, diciamo proprio così, strettamente aritmetico, si ottiene che il consumatore acquisti un prodotto piuttosto che un altro, ma questo porta direttamente a un'altra cosa, alla potenza economica di chi investe in pubblicità. Ovviamente chi ha il pubblicitario migliore e riesce a emettere il suo messaggio in modo sistematico, direi quasi ossessivo, è avvantaggiato rispetto al piccolo produttore che forse ha un prodotto migliore, ma non ha questa uguale potenza di fuoco. Questo riferitelo anche alla dimensione politica, dove non si tratta solo di quello che ho detto, cioè il potere del regime che condiziona, controlla attraverso una propaganda ossessiva, sì. Per cui l'immediato ricaduta è che basta che siamo in un regime democratico dove c'è il pluralismo dei partiti e questo rischio è evitato. Non è evitato affatto, perché le tecniche di, esattamente come viene manipolato il consumatore, viene manipolato il cittadino, dove il partito, il candidato sono un prodotto da collocare sul mercato. Io mi ponevo un problema nel pezzo che ho scritto per il mio blog sulla vittoria di Obama, dove dicevo, sì, però poniamoci un problema. Queste sono state le elezioni più costose della storia, mai successo prima. Obama da solo ha speso 1.000 miliardi di dollari. Ora, 1.000 miliardi di dollari, tanto per darvi l'idea, sono il PIL annuo del Messico. Cioè, questo ha speso il sano il PIL di uno Stato non propriamente piccolino come il Messico per una campagna elettorale. Ecco, quanto è democratico un regime nel quale chi ha vinto? Ha vinto perché ha speso 1.000 miliardi. È quello, non dico perché, ma insomma, è quello che ha speso 1.000 miliardi di dollari. Quante possibilità avrebbe avuto un candidato migliore di Obama? Al di là poi della questione del consolidamento dei partiti democratico e repubblicano. Ma un terzo candidato che avesse speso solo l'inezia di 20 milioni di dollari, cioè qualcosa come 40 miliardi, quante probabilità avrebbe avuto nei confronti di Obama e di Romney? Credo che nessuno di noi pensi lontanamente possibile che fosse potuto andare oltre l'1,5, il 2% di voto. A questo dovete aggiungere che anche le primarie sono sotto, perché nel costo noi dovremmo avere 1.000 miliardi della campagna elettorale. Beh, vabbè, nel caso del Partito Democratico non ci sono state le primarie perché è abbastanza automatico che venga ricandidato il presidente. Ma immaginiamo invece il primo turno, quello della volta scorsa, quando Obama è stato espresso da una lunga campagna di primarie in cui aveva speso una paccata di miliardi, niente male. Ecco, un candidato che avesse avuto il 10% della sua potenza di fuoco economica avrebbe avuto la più lontana probabilità di batterlo alle primarie? E ecco come il discorso della pubblicità ha cambiato definitivamente anche i meccanismi, esattamente come l'acquirente, il consumatore non è più il consumatore astratto, razionale, che compra la merce che ha il miglior rapporto qualità-prezzo, l'elettore non è più l'elettore che razionalmente sceglie il candidato sulla base di sue valutazioni sul discorso politico, tra l'altro c'è una forte personalizzazione, ma sulla base di una serie di questioni. Ad esempio, il richiamo, notate quanto è insistito il richiamo, per esempio, alla figura fisica del leader. Putin ha fatto una campagna elettorale tutta esplicitamente incentrata sulla figura del corpo del capo, facendosi fotografare a busto nudo, credo mentre raccoglieva, mieteva grano, che è un numero di varietà che abbiamo già visto, sì. E quindi molto preoccupante come cosa, anche a caccia, a caccia, e cioè in cui Putin è il capo, è il maschio di riferimento, è quello che può guidare la Russia verso nuovi traguardi. Però siccome non votano soltanto le donne, gli uomini in parte sono presi da questa immagine del capo, in parte funziona meno. Beh, ci facciamo una bella dose di escort e di ballerine, cioè con spettacoli porno, che anche quello fa parte della campagna elettorale. Ecco, Obama non è arrivato a questi livelli, però anche lui l'ha giocata molto sul ruolo della forza fisica, assecondato dal fatto che certamente è un uomo gradevole fisicamente, giovane. Oddio, questi 4 anni lo hanno imbiancato molto di più di quanto non era all'inizio, però si mantiene un uomo abbastanza piacevole che può riscuotere il successo presso l'elettorato femminile. Va bene. Ma che c'entra tutto questo con una scelta politica? Oh, in Cina è tutto più semplice, non si vota, quindi il problema non si pone. E quindi può accadere al massimo che il leader si procuri uno strappo nuotando, forse. Ci sono però invece quegli scandali sessuali di cui dicevo, perché lì c'è tutta un'altra dinamica. Ecco, tutto questo dimostra come, a proposito della Cina, ecco, la manipolazione dei media da parte dei servizi, per capire quanto questo poi è importante. Noi siamo sicuri che la cosa sia andata, la questione di Elud, come si chiama, l'uomo d'affari inglese amante della moglie Moglie. di Bosilai, no? Che sarebbe stato ucciso, avvelenato dalla moglie, poi. Siamo sicuri che è andata così? In realtà, a rileggere bene l'andamento della vicenda, si nota come all'inizio nel web sono emesse una serie di possibili spiegazioni. Questa è una di quelle. Poi, man mano, questa prevale sulle altre e a quel punto si formalizza l'accusa alla Gukalai, la moglie di Bosilai. La cosa più probabile è che, ecco, vedete, i cinesi non stanno puntando a controllare e reprimere il web, perché ormai quando c'hai 500 milioni di internauti, pensare, sì, ogni tanto ti fanno lo scherzo della parola chiave che per cui se batti strappo muscolare alla schiena nei giorni in cui è sparito Xi Jinping, vedi che automaticamente il contatto si blocca, per cui è stato inserito. E vabbè. Però la verità è che la cosa migliore, un'altra, è emettere dei messaggi, fingendosi internauti, emetterne una certa quantità per guidare il dibattito in una certa direzione. Allora io prima emetto una serie di messaggi per vedere qual è la spiegazione che piace di più in rete? Un sondaggio. Appurato che i cinesi sono in un momento in cui sono molto sensibili alle questioni, agli scandali legati alla dimensione sessuale, per esempio la morte del figlio del segretario di Hu Jintao che si schianta con una macchina, una Ferrari, quindi già è una cosa che può girare le scatole ai cinesi, questi giovanotti che vanno a 200 all'ora per il corso di Pechino. Con una Ferrari. La Ferrari è una cosa già piglia male. Per di più cominciamo a dire che lui era semisvestito e c'erano due ragazze quasi nude a bordo dell'auto che rimarranno ferite, poi non se ne saprà più niente, perché stava sperimentando il sesso ad alta velocità. E quindi proprio il peggio che si possa immaginare, questa gioventù corrotta che fa di queste cose, avrebbe potuto anche mettere sotto qualcuno, tema a cui i cinesi sono molto sensibili e immediatamente parte la campagna. Poi è vero o non è vero che ci stavano queste ragazze? L'auto si è andata a schiantare perché andava a 200 all'ora o non era a 200 all'ora? Qualcuno gli ha manipolato i freni o no? Non ponetevi di queste domande. Quello che conta è quello che sembra, non quello che è. Hanno fatto molto presto anche i cinesi ad apprendere la lezione ed ad utilizzare questo anche attraverso un media moderno come quello del web, dove appunto il problema resta questo, non tanto costringere gli altri o abbatterne la volontà, quanto incapsularla, irretirla, dirigerla, creando un'immagine della realtà che spinga nella direzione che noi vogliamo. E questo è quello che ha cambiato appunto l'economia, la politica e a maggior ragione di tutto la guerra. Perché dove probabilmente noi fra qualche tempo, pensate soprattutto a che belle manipolazioni si possono fare nelle guerre finanziarie o valutarie, emettendo certe notizie piuttosto che altre, creando un condizionamento, per esempio nel collocamento di un'asta di titoli, eccetera, eccetera, eccetera, che a mio avviso probabilmente è un'applicazione a guerra psicologica all'economia che forse è già iniziata.